Larga parte dei locali del 50° Salone del Mobile è dedicata all'illuminazione, un settore che ha dovuto cambiare rotta da quando le normative europee, che risalgono al 2009, hanno limitato l'uso delle lampadine incandescenti. In questo nuovo contesto c'è una parabola in continua ascesa, rappresentata dai LED, lampadine di nuova generazione, dalla vita lunghissima, che non richiedono alcuna manutenzione e dalle dimensioni ridotte. Dettaglio che ha suggerito ai progettisti un processo di miniaturizzazione, come spiega il critico Marco Romanelli, consulente di Cosmit per il Salone del Mobile. Usando sorgenti più piccole si possono disegnare lampade più piccole, e questo è particolarmente vero in tutto quello che è ad esempio il settore della scrivania, dove la luce molto tecnica consente di fare lampade operative a braccio estremamente funzionali. La tendenza opposta è quella invece dell'ingigantimento, con alcuni modelli di lampade che diventano veri e propri oggetti luminosi. Ed un ulteriore trend è la cosiddetta architettura luminosa. Nel futuro prossimo le fonti di luce negli ambienti avranno origine direttamente dall'interno dei muri. Irene Privitera, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano.